La storia di Alexandra Kollontai è la dimostrazione di come una donna debba lottare per affermare la sua libertà e quella delle sue sorelle in un mondo androcentrico, privato della spiritualità. Alexandra operò nella stessa epoca di altre grandissime attiviste per i diritti umani e delle donne, come Anna Kuleshov, Rosa Luxemburg e Clara Zetkin. Il comunismo in Russia e nelle sue province aveva istituito l'ateismo di Stato e dunque le donne, già private dal cristianesimo ortodosso zarista, dalle loro tradizioni spirituali sciamaniche native, furono con la rivoluzione comunista ulteriormente deprivate di una componente fondamentale della loro vita, la spiritualità. Furono addestrate a dar valore solo alla materia e alla mente, a eliminare l'emozione e a considerare il corpo un mero strumento, una macchina biologica da utilizzare per la sopravvivenza. In questa cornice che dobbiamo collocare la vita e l'opera di questa straordinaria antenata. Alexandra nacque il 31 marzo di 1872 a San Pietroburgo, in una famiglia del generale Mikhail Alexievich Domontovich. Mikhail Alexievich era una persona molto istruita, di vedute liberali, membro della Società Geografica, scrisse sulla storia militare, e prestò anche il servizio per un anno come governatore di una provincia dell'Impero russo. La madre della futura rivoluzionaria, la cittadina finlandese Aleksandra Masalina Miravskaja, era molto più giovane del suo marito, ma era già divorziata dal suo primo marito e aveva 3 figli alle spalle. Nelle vene dell'Alessandra scorreva il sangue russo, polacco, finlandese e tedesco. Bisogna dire che in questo periodo in Russia le donne avevano già ottenuto una certa libertà rispetto alle loro sorelle in Europa. Le aristocratiche potevano ereditare dai genitori e dal marito e autonomamente gestire il patrimonio. E anche nel campo dell'occupazione delle donne, le donne ebbero accesso a molte aree professionali. Apparvero donne telegrafiste, giornaliste e editore. Nel campo delle relazioni personali e familiari, il divorzio per iniziativa di una donna non era più un fenomeno eccezionale. Ecco perché nella generazione di donne nate nel decennio 1860-70 troviamo le prime che si sono fatte strada nell'area politica russa ed europea. Tra queste ricordiamo Ariadna Cirkova, Sofia Panina, Anna Milukova, Nadežda Krupskaja, Jelena Stasova e Anna Cernova. I genitori di Alexandra le diedero un'istruzione a casa, sebbene le buone scuole medie familiari lavorassero con successo per più di un decennio. E nell'anno della nascita di Alexandra furono aperti corsi superiori femminili a Mosca e corsi superiori di medicina femminile a San Pietroburgo. Il padre instillò nella figlia l'amore per la storia, la geografia e la politica. Guardando suo padre, la ragazza ha imparato a pensare analiticamente. L'educazione domestica delle donne inoltre includeva tradizionalmente lo studio delle lingue straniere, letteratura e la musica. Alla fine dei suoi studi la ragazza parlava fluentemente francese, inglese, finlandese, svedese, norvegese e tedesco. A età di 16 anni Alexandra superò gli esami esterni necessari. Si diplomò come governante. La madre, come succedeva spesso a quei tempi, considerava superflua l'ulteriore istruzione E la ragazza smise a studiare e si interessò alla pittura. Oltre alle lezioni creative, la giovane partecipava ai balli, in cui, secondo i suoi genitori, avrebbe dovuto trovare un degno sposo. Era molto carina, bei capelli castani, labbra color ciliegia, occhi grandi grigio e verdi. Ma l'ostinata Alexandra non voleva sposarsi per convenienza, sebbene godesse di un incredibile successo tra i rappresentanti dell'altra società. Sono indifferente alle brillanti prospettive del pretendente. Sposerò un uomo che amo, dichiarò ai genitori. Fin dal giovanissimo, intorno a lei fu sempre un atteggiamento doppio da parte degli uomini. La corteggiavano, ma di lei dicevano che fosse troppo bella, troppo libera, troppo intelligente e troppo indipendente, e che avesse provocato il suicidio di alcuni spasimanti, rifiutandole. Naturalmente si tratta di pettegolezze senza fondamento che però la molestavano fino alla fine dei suoi giorni. D'altronde non è una novità che quando una donna si permette di uscire dal recinto delle regole disegnate dagli uomini per tenerle soggiogate, anche i più liberali di loro, sentendo tale donna come una minaccia per il sistema patriarcale, le si scagliano contro. All'età di 18 anni, Shura, come la chiamavano da giovani, si infotolò del suo lontano parente, Vladimir Kolontai, che proveniva da una famiglia nobile impoverita. Attratta dal fatto che lui non pretendeva i baci e non le confessò il suo amore, ma le parlava della felicità della gente e condivideva le idee dello scrittore democratico di avanguardia, Proibito Chernyshevsky. La ragazza, come molti dei suoi coetanei, si era appassionata alle idee di libertà e di uguaglianza che provenivano dall'Europa. I suoi genitori erano contrari al matrimonio con Kollontai e, volendo distrarre la figlia dall'idea del matrimonio, la mandarono a viaggiare in Europa, dove lei incontrò e si appassionò fortemente alle idee socialiste. A quel punto i genitori decisero che il matrimonio con parente povero era un male minore del socialismo e lo accettarono. All'età di 22 anni, Alexandra diede a luce un figlio, ma la vita di una donna sposata per lei si è rivelata noiosa. Più tardi, nei suoi diari estremamente esplicite, Shura ammise: in quei giorni la donna in me non era ancora stata svegliata. Ho chiamato la nostra relazione coniugale obbligo di leva, e il mio marito, ridendo, mi chiamava pesce. Suo marito l'adorava, ma non riuscì a fare di lei una moglie amorevole e custode del focolare. Volevo essere libera, ammise Alessandra dopo. La sua attrazione per le idee marxiste non era affatto passata e lei voleva recarsi in Europa per continuare la sua formazione politica. Allo stesso tempo arrivò la delusione del matrimonio. E Alexandra lasciò il suo figlio alle cure dei nonni e partì per Zurigo. Ebbi un bimbo, scrive, ma nonostante mi sia dedicato a lui con molta cura, la maternità non è mai stato il perno della mia esistenza. Il figlio non avrebbe mai potuto rendere indissolubile i legami di un mio matrimonio. A 26 anni si trasferì a Zurigo per seguire all'università lezione di economia politica marxista. L'anno successivo andò in Inghilterra per studiare il movimento operaio. Là incontrò i coniugi Sidney e Beatrice Webb, esponente di spicco del Partito Laburista. Laurearsi all'Università di Zurigo e iniziare attività giornalistiche. La passione per le questioni economiche e il movimento operaio, lavoro sui libri, la vita dei lavoratori finlandesi e, alla questione della lotta di classe sono le fasi della sua formazione professionale e politica in quel periodo. Di conseguenza, Alexandra diventa una socialdemocratica molto riconosciuta in Europa e soprattutto in Finlandia, frequente più illustri esponenti politiche e artistiche d'Europa: Rosa Luxemburg, Clara Zetkin, Karl Kautsky, Karl Liebknecht, Lenin, Plekhanov, Lunacharsky e Trotsky. Alexandra Kollontai divenne amica di Clara Zetkin, che era anche la migliore amica e compagna politica di Rosa Luxemburg. Scrissero insieme alcune opere dedicate alla posizione della donna nella società. La più famosa è Cosa vogliono le donne? Entrambi erano d'accordo sul fatto che la donna dovesse essere liberata dalla schiavitù sociale maschile, ma allo stesso tempo vedevano le vie di questa emancipazione in un modo diverso. Clara pose l'accento sul metodo sociale. L'Alexandra, pur senza negarle, attribuì un ruolo chiave all'emancipazione femminile e elaborò il suo concetto di nuova donna. Una nuova donna non dovrebbe dipendere da un uomo, dalla sua decenza o deprivazione, dall'amore o dall'antipatia per lei. Vive nell'interesse della società, non della sua famiglia, e combatte per i suoi diritti alla pari con un uomo. Le virtù femminili, come la pazienza, la sensibilità, la gentilezza, la capacità di cedere, eccetera, a cui le donne sono state addestrate per secoli nella società tradizionale, devono essere dimenticate e rifiutate. Una donna, d'ora in poi, sarà non soltanto una moglie e una madre o un amante, ma soprattutto una lavoratrice e un'attivista. Così vedeva Alexandra la donna del nuovo secolo. Contrariamente ad altre protagoniste del movimento rivoluzionario russo, lei non abbracciò in gioventù le teorie rivoluzionarie. Nel suo diario scrisse: «La vita comoda mi piacque fin dall'infanzia, ma sapere che le altre soffrono la fame mentre io stavo bene mi addolorava terribilmente». Ritornata in Russia a 31 anni, si separò definitivamente dal marito e cominciò il lavoro politico nella socialdemocrazia peterburghese. Scoprì di avere un raro dono oratorio. Secondo i ricordi dei suoi contemporanei, incantava qualsiasi pubblico. Elegante, brillante, lavorò sodo come pubblicista, attivista e organizzatrice di comizi e manifestazioni. Durante la prima rivoluzione socialista russa del 1905, che fallì, Alexandra sostenne le donne lavoratrici distribuendo l'opuscolo Finlandia e il socialismo, che avevo scritto in precedenza, dove aveva già esposto le richieste della piena uguaglianza tra le donne e gli uomini. Cercò di creare un'organizzazione di lavoratrici e collegarle al movimento proletario, ma fu contrastata dai suoi compagni di partito. Dopo che i rivoluzionari furono sconfitte, per sfuggire dalla persecuzione e dall'eventuale esilio, Alessandra si spostò all'estero e abbracciò con tutto il cuore le idee marxiste. Nello stesso periodo, iniziò ad approfondire il proprio impegno sulla questione dell'emancipazione e liberazione della donna, pubblicando l'elemento sociale della questione femminile. Nel 1905 a Mannheim partecipò alla quarta conferenza femminile della socialdemocrazia tedesca e alcuni anni dopo a Stoccarda, alla conferenza femminile della Internazionale Socialista con amica Clara Zetkin, sostenendo il diritto al voto delle donne. Nel 1908, al primo congresso femminile panrusso, organizzò un gruppo di lavoratrici con un proprio programma, che si distingueva dal movimento femminista europeo. Alexandra si definiva paradossalmente antifemminista e chiamava le femministe le nostre nemiche, perché in Russia e in gran parte del mondo socialista il femminismo era considerato una istanza borghese. L'obiettivo delle femministe è organizzare al meglio le donne in una certa categoria sociale nel mondo dello sfruttamento moderno, scrisse a proposito del movimento femminista borghese. Lavorò intensamente per il giornale Le Voci delle Operaie. Al Congresso Internazionale Socialista di Basilea del 1912, Alexander scrisse il piano di assistenza della maternità, che fu in parte adottato in Russia nel 1918. Nello stesso periodo lavorò come redattrice di una proposta di legge sull'assistenza sociale della maternità da presentare alla Terza Duma, era un nuovo organo legislativo russo. Nel 1914 iniziò a pubblicare nella rivista socialdemocratica Operaia, che fu fondata a Parigi. Le redazioni si trovavano a Parigi, a San Pietroburgo e a Cracovia. Inessa Armand, la fondatrice, chiamerà la sua rivista l'autentico organo delle lavoratrici, una rivista che trattava i loro bisogni, richieste e le lotte che le univano. Alexandra diventò membro del Partito Bolscevico nel 1915. In quel periodo viaggiò attraverso l'America per promuovere varie conferenze di pace e quando 2 anni dopo fu abbattuta dal regime zarista, fece subito il ritorno dall'esilio. Viene eletta prima fra le donne al comitato esecutivo del Soviet di Pietroburgo, Petrogrado, e divenne immediatamente una delle referenti di Lenin. Con la presa del potere dalla parte dei bolscevichi nell'ottobre del 1917, entrò a far parte del governo rivoluzionario, il Consiglio dei Commissari del Popolo, e fu nominato commissario del Popolo per assistenza sociale. Fu la prima donna al mondo ad essere ministro di governo. L'attività di Alexandra come commissaria del popolo per la carità sociale del primo governo bolscevico fu breve, solo 4 mesi, ma durante questo periodo riuscì a incarnare molte idee elaborate dalle femministe russe. Il decreto sull'introduzione del matrimonio civile, basato sull'uguaglianza dei coniugi, il decreto sul divorzio, il decreto sui diritti della prole illegittima. A 46 anni sposò il capo dei marinai bolscevichi della lotta del Baltico, Pavel Dybinko, molto più giovane di lei. Secondo la nuova legge matrimoniale, da lei stessa proposta, che permetteva ai cittadini sovietici di sposarsi ufficialmente in pochi minuti con un rito civile. Fu la stessa Alexandra proposta del matrimonio a Pavel. Malgrado le voci che le attribuivano di seguire in pratica la teoria del bicchiere d'acqua, la quale sosteneva che far sesso deve essere semplice e naturale come bere un bicchiere d'acqua, Alexandra prendeva sul serio il matrimonio come impegno esclusivo dei coniugi, solo che non lo considerava indissolubile e fino alla morte. Nello stesso anno, Alexandra fu tra le organizzatrici del primo congresso delle donne lavoratrici russe, dalla quale nasce lo Genadziel, organismo per la promozione della cosiddetta questione femminile, della partecipazione delle donne alla vita pubblica, per le iniziative sociali e la lotta dell'analfabetismo. Grazie al suo impegno, le donne ottennero il diritto di voto e quelle di essere elette, diritto universale, uguale, segreto, diretto, senza distinzione di genere, nazionalità, religione, il completo accesso all'istruzione, all'assistenza durante la maternità e la parità salariale. Le principali questioni di Genadiel erano l'uguaglianza, la partecipazione delle donne alle attività rivoluzionarie e al servizio della comunità, la nuova percezione della moralità nel contesto del matrimonio e un cambiamento del ruolo della donna nella famiglia nel suo insieme. Sono state sollevate anche questioni di educazione atea e femminile. La religione patriarcale, secondo le autorità sovietiche, impose opinioni vecchie e non moderne sul ruolo di donna, familiare e sociale, e in contrasto con la nuova ideologia. Come scrisse Ekaterina Shepkina, scrittrice storica russa della prima metà del Novecento, gli ideologhi del movimento delle donne bolscevichi furono fortemente ispirate dall'esempio delle sorelle femministe francesi. Le prime figure del movimento femminista in Russia furono Maria Trubnikova, Nadezhda Stasova e Anna Filosofova. Paradossalmente, dopo essere diventata membro del governo sovietico, Aleksandra appoggiò il divieto di organizzazione femminile indipendente e la chiusura di giornali e riviste femministe. Ricordiamo che il femminismo era considerato in Russia un'istanza borghese e quindi lei, come ha più volte espresso nei suoi articoli, temeva che l'attività di propaganda e attivismo delle femministe attrasse le lavoratrici nel movimento femminista e le sottrasse al movimento proletario. Ancora nel suo libro La società e la maternità, ancora nel 1916, Alexander criticava le condizioni sociali della maternità delle lavoratrici, proponeva idee di protezione sociale alla maternità attraverso l'assicurazione pubblica, il congedo di maternità retribuito e la creazione delle scuole materne. Le femministe avevano iniziato a sviluppare questo tema molto prima di lei e Alexandra ripropose molte loro tematiche. Lei credeva che lo scopo della vita di una donna non dovesse essere necessariamente la maternità, come era opinione comune a quei tempi. Tuttavia, riteneva che una donna potesse scegliere e se avesse deciso di diventare madre, avrebbe dovuto essere aiutata dallo Stato. Per Alexandra, la maternità era un duro lavoro, quindi lo Stato doveva facilitarla attraverso la costituzione di una rete di asili nido e le scuole. E in queste istituzioni i bambini dovevano anche poter mangiare e dormire. Fu la sua convinzione la necessità di eliminare la distinzione tra uomo e donna e di trasformare tutti e due in compagni di lotta. Le femministe russe insistevano sul valore di tutto ciò che è femminile, la personalità femminile, l'esperienza femminile, la visione femminile del mondo. Le femministe definivano le donne delle classi inferiori, le lavoratrici e contadine, come schiave delle schiave. Invece Alexandra definiva una lavoratrice come compagno di un uomo nella lotta, eguagliata ad un lavoratore maschio con sofferenze comuni. In questa probabilmente si assomiglia alla visione di Rosa Luxemburg o di Marie Curie, che non si schieravano mai apertamente a favore del suffragio femminile o dei diritti delle donne. Tuttavia, molte idee femministe furono in qualche modo accettate e sostenute da Alexandra. Ad esempio, la richiesta di diritti civili complete per le donne come strategia per far accedere le donne alle attività maschile, come politica, produzione pubblica, oppure l'idea che pone la responsabilità sui consumatori maschi della prostituzione. La richiesta di abolire il doppio standard riguardo la moralità sessuale, il diritto d'aborto, Alexandra diviene altre due volte ministro della propaganda nei governi vassalli sovietici di Ucraina e di Crimea, fino a che a 49 anni Ritornò a Mosca, sola, senza una famiglia. Venne a sapere col marito, che continuava ad assicurargli il suo amore eterno nelle lettere, aveva una giovane amante. Alexandra aveva sempre considerato la gelosia un sentimento obsoleto, ma in questa situazione rimase scioccata e disgustata. Il marito che lei amava, insieme con la nuova amante succube, occupava un'enorme villa arredata con mobili costosi e sfarzosi e ci organizzava grandi feste proprio in un momento in cui la Russia era impoverita, afflitta della guerra civile e dell'invasione degli alleati. Senza un attimo di esitazione, divorziò. Il suo carattere indipendente la portò a 50 anni ad opporsi a Lenin. Per sfruttare le sue conoscenze e amicizie internazionali e contemporaneamente espellerla dal paese, le fu offerto di diventare la rappresentante dello Stato sovietico in Norvegia. Lei accettò e l'anno successivo iniziò la sua carriera diplomatica, diventando una delle prime donne diplomatiche al mondo, insieme alla britannica Gertrude Bell, che qualche anno prima è stata nominata segretaria orientale da Churchill per il suo lavoro diplomatico di Medio Oriente. Tornando ad Alexandra, forse furono i molti contatti e la fama internazionale a salvarla durante la repressione stalinista, o forse fu che Stalin la trattava con umorismo e con condiscendenza, non percependola in quanto donna come un serio avversario politico. In seguito rappresentò alla Russia sovietica in Messico, poi di nuovo in Norvegia e nel 1930 già con il grado di ambasciatrice iniziò a lavorare in Svezia, dove rimase fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Ma tutti questi meriti non salvarono Alexandra dal sospetto di Stalin, che cominciò a vederla come una spia. Infatti, lei aveva molte amiche intime e collaboratori tra le straniere, cosa che a quei tempi era considerata un tradimento. Il tempo passava, Alexandra diventava sempre più sola. Amici e amori, uno dopo l'altro, furono inghiottite dall'era sanguinosa. Nel crogiolo del Grande Terrore morirono Shliapnikov, Dubinka, Stankevich. L'amica più cara, Zoe Shadurskaya, morì di crepo cuore nel 1937 quando bussarono alla sua porta per errore nella cuore della notte. Vicino a lei rimase solo Marcel Baudy, un comunista francese, segretario della missione sovietica e il suo unico amico e confidente di questi anni. Baudy era deluso dal regime sovietico, e le conversazioni con lui l'aiutarono a riconsiderare molte delle sue vecchie opinioni. All'età di 71 anni entrò in sanatoria a Stoccolma e durante la sua assenza dall'ambasciata il suo intero archivio personale fu rubato e trasferito a Mosca. Tutte le sue lettere, ricordi, note, fotografie furono attentamente studiate dall'NKVD. 2 anni dopo ebbe un ictus e fu rimpatriata a Mosca, dove con il prestito di curarla la misero agli arresti domiciliari. Da allora in prima della sua uscita dal corpo, che avvenne all'età di 80 anni, rimase comunque consulente del Ministero dell'Estero. A giudicare dal diario, Alexander considerava il suo più importante risultato il contributo alla causa della liberazione della donna in tutti i campi, ma soprattutto nel campo della moralità sessuale. La prima donna ministra e tra le prime ambasciatrici del mondo che aveva dato così tanto per l'emancipazione femminile, ricevette solo un piccolo necrologio di 30 parole in uno dei giornali sovietici. Ancora una volta riceviamo la conferma di come la società rimanga sostanzialmente patriarcale E pur avvantaggiandosi di tutto ciò che viene fatto da una donna, apertamente la critica e non le tributa gli onori che merita nemmeno alla fine della sua esistenza terrena. Adesso vorrei parlare delle idee femministe e sociali del Sacra. Molte delle disposizioni del campo della legislazione sessuale messe in pratica dopo la rivoluzione bolscevica sembrano ancora oggi di estrema libertà. Così, un mese dopo la vittoria della rivoluzione, i decreti di Lenin sull'abolizione del matrimonio e sul matrimonio civile, sui bambini e sull'introduzione di uno stato civile concedeva alla donna piena autodeterminazione materiale e sessuale. Introducevano il diritto della donna alla libertà, libera scelta del nome, cognome e del luogo di residenza. Con questi decreti il matrimonio di fatto poteva essere facilmente concluso e altrettanto facilmente sciolto. Anche Alexandra in questo periodo, definendosi marxista femminista, nelle sue brochure, La nuova morale e la classe operaia e La strada per l'eros alato, cercava di spiegare come può essere la vita di una donna libera, la sua piena uguaglianza con un uomo, non solo in materia di moralità e di genere, ma anche nella libertà di scelta sessuale. Lei stessa ammetteva di rappresentare l'ala più radicale del partito riguardo la nuova moralità. Nei suoi articoli opuscoli, sviluppando l'idea dell'amore libero. La famiglia non è più la necessaria, non è necessaria per lo Stato perché distrae le donne dal lavoro, utile alla società, non è necessaria per i membri della famiglia, poiché l'educazione dei figli può essere assunta gradualmente dallo Stato. L'istituzione della famiglia è contraria all'idea del comunismo. Invece si deve semplicemente creare un fondo per aiutare tutti coloro che hanno bisogno a causa delle conseguenze dell'amore libero. La gelosia è un conglomerato di fattori biologici e sociali, ha scritto. La vita sociale e la vita collettiva devono colpire la famiglia patriarcale. La nuova donna si sforza di diventare un membro a pieno titolo della società. Ed è quindi guidata dai seguenti principi: vittoria sull'emozione, sviluppo dell'autodisciplina, rifiuto della gelosia, rispetto per la libertà dell'uomo. Richiede all'uomo non sostegno materiale, ma l'attenzione e rispetto per la sua personalità. Una donna nuova è una persona indipendente, i suoi interessi non si riducono a casa, famiglia e amore. Che si abolisca l'ipocrisia della doppia morale nelle relazioni amorose, ribadiva dal suo libro Cosa vogliono le donne. Ma la società, basata sui principi del patriarcato, non poteva all'improvviso, obbedendo alle nuove leggi e idee, cambiare così rapidamente la sua mentalità. L'abolizione e la socializzazione della proprietà privata hanno portato a una conclusione logica. Se una donna prima era proprietaria di un uomo, padre o marito, ora logicamente diventava proprietà di tutti, dominio pubblico. L'idea che una donna appartenga a se stessa e non aveva bisogno di un proprietario, con difficoltà si stava facendo strada nelle teste di uomini e di donne. La verginità dopo i 16 anni era considerata un pregiudizio. Le scuole insegnavano le basi dell'educazione sessuale, in cui il principio fondamentale era che far sesso dovrebbe essere naturale, come bere un bicchiere d'acqua. Ai bolscevichi, che non avevano una partner sessuale, venivano concessi i mandati per un certo numero di donne, che esse avevano il diritto di sfruttare sessualmente, anche se non ne avevano il desiderio. La storia del bicchiere d'acqua che veniva usato per contrabbandare la libertà sessuale sempre ad uso e consumo degli uomini viene erroneamente attribuito ad Alexandra, ma fu in realtà legata ad un'altra grande madrina dell'emancipazione, Aurore Dupin, nota come George Sand. Sebbene come sempre in maniera completamente travisata e corrotta dalla visione patriarcale. La menzione al bicchiere d'acqua appare infatti nella biografia di Frédéric Chopin, scritta da Franz Liszt a metà del XIX secolo, e riporta le supposte parole di George Sand, secondo quale l'amore come un bicchiere d'acqua è dato a chi lo chiede. È evidente che questa frase George Sand non si riferiva certo al sesso, bensì alla sete d'amore dell'anima. L'amore di cui lei ha sempre scritto. Però in Russia, governo tarato di Riazan, le autorità del 1918 emisero un decreto sulla nazionalizzazione delle donne e nel Tambov nel 1919 sulla distribuzione delle donne. In Vologda furono attuate le seguenti disposizioni. Ogni donna studentessa che riceve un'offerta ad un uomo per avere un rapporto sessuale deve soddisfarlo, altrimenti non merita il titolo di studentessa proletaria. Così si sono formate le comuni di Komsomol. Su base volontaria, una tale comune famiglia di solito ospitava 10-12 persone di entrambi i sessi. I partecipanti di una comune famiglia scrivevano: non sentiamo differenze di sesso. In comune, una ragazza che ha rapporti sessuali non è distratta dalla vita sociale. E se non vuoi vivere infelice come i tuoi padri, se vuoi trovare una situazione soddisfacente alla questione della relazione tra i sessi, costruisciti una comunità di giovani lavoratori. Alexandre inizialmente incoraggiò con ammirazione questa teoria. Scrissi in La rivoluzione domestica: vivere in una casa comune è molto più comodo, più conveniente. Le case comuni sono sempre meglio attrezzate, hanno una cucina centrale, una lavanderia, con altri asili nido all'interno. Gli abitanti delle case comuni sono invidiati da tutti coloro che vivono in appartamenti privati. Ma in seguito, visto il risultato, con la sua promiscuità diffusa e mortificazione dell'amore, i tanti figli che nascevano senza padre, cambiò la sua opinione. Concluse che i cambiamenti della struttura sociale della società non erano sufficienti per cambiare la relazione tra uomo e donna, che dovevano verificarsi cambiamento di personalità delle donne e degli uomini. Tornò alle idee femministe che aveva criticato in precedenza e alla sua idea di nuova donna che espose per la prima volta in un articolo con lo stesso nome nel 1910. La nuova donna si sforza di diventare un membro al pieno titolo della società ed è guidato dai principi di vittoria sull'emozione e sviluppo dell'autodisciplina, rifiuto della gelosia, rispetto per la libertà dell'uomo, richiedere dall'uomo non sostegno materiale, ma l'attenzione e il rispetto alla sua personalità. Una nuova donna è una persona indipendente, i suoi interessi non si riducono a casa, famiglia e amore, diceva ancora una volta Alessandra. Credeva che la donna stessa dovesse molto lavoro da fare su se stessa per ottenere i suoi diritti. E per questo avevo bisogno di abbandonare le qualità tipiche delle donne, come debolezza e sensibilità, e stereotipi di comportamento obsoleti. Gli stereotipi obsoleti, secondo lei, erano una ragazza dolce che si è felicemente sposata, una moglie che soffre di tradimento della parte del marito, una moglie traditrice, Una vecchia zitella, triste per il suo infelice amore della giovinezza passata, una ragazza di facile condotta, viziosa o infelice. Le sue idee sulla parità nel matrimonio, sul valore delle relazioni sessuali nella vita di una donna, sulla non necessità di organizzare un matrimonio, sulla liberazione delle donne della vita di tutti i giorni, sulla delega delle funzioni materne allo Stato, suonavano davvero molto radicale. Credeva che fosse necessario vivere il matrimonio, ma liberamente, essere coniugi fedeli, ma indipendenti uno dall'altro, vivere separatamente, dare bambini all'asilo nido, alle istituzioni educative speciali, perché i bambini impediscono a una donna di svilupparsi come persona, di non avere soldi in comune con il marito, non avere una cucina, mangiare nelle mense collettive. Lei diceva: l'ideologia borghese ha portato delle persone l'abitudine di mescolare sentimenti d'amore con il sentimento di proprietà su un'altra persona. Le prime parole affettuose scambiate tra gli amanti sono: io sono tua, tu sei mio. È tempo che questa abitudine borghese scompaia. Non puoi dire mio o mia al tuo partner. Senza idee di proprietà scompariranno anche i tormenti della gelosia. Ma qualunque cosa le sia stata attribuita, Alexandre rifiutò sempre un facile scambio di partner. Una donna moderna e nuova non solo non ha paura dell'indipendenza, ma impara anche ad amarla. E man mano che il suo interesse si estendono sempre di più oltre la famiglia, la casa, l'amore, ribadiva. La vecchia famiglia patriarcale deve essere distrutta. Nonostante la grande rivoluzione che fece in Russia ha vinto, il risultato non fu quello che sognava. L'amore, la lealtà, il sostegno non avevano posto nella nuova società. Occorreva più tempo, più lavoro su di sé. Nel 1926, tornando in Unione Sovietica per un breve tempo, Alexandra osservava amaramente: certo, le donne hanno ottenuto tutti i diritti, ma in pratica vivono ancora sotto il vecchio giogo, senza un vero potere nella vita familiare, schiavizzate da mille piccole faccende domestiche, portando il pieno fardello della maternità e persino delle preoccupazioni materiali per la famiglia. La sua ex collaboratrice, Vera Pavlovna Lebedeva, che era passata al commissario del popolo a capo del Dipartimento per la protezione della maternità e dell'infanzia, testimoniava: dopo aver distrutto le basi della vecchia famiglia, introducendo l'istituzione del matrimonio civile, consentendo una facilità senza precedente per il divorzio, non abbiamo armato una donna che si trova impotente di fronte al suo focolare familiare distrutta, liberata politicamente, ma economicamente ancora dipendente dal marito, perché far fronte da sola a un bambino con la nostra disoccupazione e bassi salari per una donna sola è una cosa opprimente. La politica del governo nei confronti delle donne stava cambiando rapidamente. I consigli delle donne creati al tempo debito da Alexandra vennero aboliti. In realtà lo Stato istituì nuovamente la vecchia famiglia patriarcale, lasciando però alla donna l'obbligo di lavoro sociale e la gestione della famiglia, obbligandola a doppio lavoro e doppia fatica. L'insistenza di Alexandra sull'indipendenza del movimento delle donne divergeva dalla linea generale del partito e presto si verificò la rottura. Lei e le sue idee divennero oggetto di battute e di aneddoti maligni dalla parte dei suoi compagni del vertice del partito. La ridicolizzavano. e la screditavano pubblicamente. Il fatto di essere strumentalizzata come zimbello del patriarcato la salvò però dal gulag. In una lettera intima indirizzata all'ultimo amore, il comunista francese Marcel Baudet disse: abbiamo perso. Le idee sono crollate. Gli amici sono diventati nemici. La vita non è migliorata, ma è peggiorata. Non c'è la rivoluzione mondiale e non ci sarà. E se lo fosse, porterebbe innumerevoli guai a tutta l'umanità. Anche da se stessa Alexandra era delusa. Pensava di non essere riuscita di forgiarsi come una nuova donna. Quanto sono lontano dal tipo di vera nuova donna, che tratta le sue esperienze femminili con facilità e persino, si può dire, con invidiabile negligenza. Appartengo ancora a una generazione di donne che sono cresciute durante il periodo di transizione della storia. L'amore, con tutte le sue delusioni, tragedie, aspettative delle felicità ultraterrena, ha avuto un ruolo importante nella mia vita per così tanto tempo. Un ruolo troppo grande, scrisse lei nel suo diario. Adesso, con questa frase, ho terminato racconto di Alexandra Kollontai e volevo fare un piccolo appendice della situazione odierna della donna in Russia. Pertanto, grazie ad Alexandra Kollontai, la Russia è riuscita a realizzare con 50 anni di anticipo ciò che è arrivato in Europa solo negli anni 60. Per tutta l'esistenza, il cambiamento di vari regimi in Russia, tutti i diritti che le donne hanno ricevuto grazie a lei sono rimasti ufficialmente incrollabili. Ma sfortunatamente la morale patriarcale e i vari modelli di comportamento in famiglia sono riusciti a sopravvivere nonostante la supposta uguaglianza politica e sociale tra uomo e donna. Al contrario, l'obbligo di lavorare alla pari con un uomo per portare denaro a casa, per occuparsi della casa, per curare i genitori anziani e i bambini, hanno messo un doppio fardello sulla donna. La donna in Russia non è mai riuscita a raggiungere il suo pieno potenziale. C'erano pochissime donne manager e con ruoli politici, tanto in Unione Sovietica quanto nella Russia della perestroika. Al contrario, con il crollo del comunismo negli anni 90, si verificò il ritorno al modello patriarcale, associato proprio al crollo dell'Unione Sovietica. Le istituzioni sociali che sostenevano, se non l'uguaglianza delle donne con gli uomini, ma almeno il tentativo di raggiungerlo, furono distrutti. Asili nido, le scuole materne, mense scolastiche e lavanderie furono chiuse. Furono chiuse tante fabbriche e arrivò la disoccupazione di massa. Molte donne sono state costrette a dimettersi dal lavoro per stare a casa con i bambini. Nel paese è regnato il caos, i diritti dei lavoratori non erano più custoditi. Tanti lavoravano in nero o semplicemente cercavano di procacciarsi da mangiare e vivevano la giornata. Molte donne hanno voluto tornare al modello patriarcale nella sua forma più triste, diventare una donna oggetto, non lavoratrice. Una donna mantenuta, cercavano disperatamente una sicurezza. Negli anni successivi, molte donne che sono riuscite a metabolizzare più rapidamente il crollo del comunismo sono diventate imprenditrici di successo. La necessità di mantenere la famiglia e i figli le spingeva a reinventarsi. Purtroppo, molti uomini accettavano malvolentieri di avere accanto una donna di maggior successo e che guadagnava di più. Non accettandolo, hanno cominciato a comportarsi in modo infantile, come tiranni domestici o i bambini responsabili e viziati. sono avvenuti tanti divorzi su richiesta delle donne a causa dell'alcolismo o maltrattamento da parte dei mariti, oppure per loro disinteresse per la famiglia. Le donne hanno cominciato a preferire di restare sole e crearsi la famiglia da amici con interesse comune, a frequentare i circoli culturali e le palestre. La donna che aveva un buon lavoro e guadagnava non voleva più sposare. Dall'altro lato, le numerose crisi sociali hanno portato al fatto che il rapporto numerico tra donne e uomini si è profondamente spostato verso il predominio delle donne. E questo ha causato per un periodo una grande competizione femminile nella ricerca del compagno. Le donne hanno iniziato di nuovo ad accettare i tradimenti maschili e le famiglie parallele, cercando di mantenere la loro felicità femminile. Le donne, anche molto capaci, cresciute in questo paradigma patriarcale, credevano di poter realizzarsi, fare la scalata lavorativa sfruttando i privilegi e le astuzie delle donne. Avere una personalità indipendente era diventato scomodo e faticoso. Negli ultimi anni, da 2010 in poi, le femministe in Russia hanno iniziato a dichiararsi più forti che mai. Le femministe iniziarono a considerare la questione di oppressione femminile nel contesto di altri tipi di discriminazione per nazionalità, orientamento, posizione sociale, disabilità e così via. Così ciò può essere spiegato dallo spirito rivoluzionario storico e dei problemi attuali in Russia moderna. Multinazionalità, multireligione, forte stacco culturale tra le grandi città e i paesini di campagna dove scarseggia il lavoro. Spesso si sente che l'opinione che le donne all'inizio del XXI secolo, che noi abbiamo ottenuto tutto ciò che volevamo e quindi il femminismo non è più necessario. Non è così. Se anche è stato possibile stabilire una certa uguaglianza in campo professionale, dall'altro lato gli stereotipi dei ruoli nella famiglia di 200 anni fa vivono ancora nella coscienza di massa. Da questi stereotipi arriva ancora il trattare una donna come un oggetto, violenza domestica e cultura dello stupro, purtroppo ancora molto diffusa sia in Russia che altrove, ovvero una società in cui lo stupro viene minimizzato a livello mediatico e non è presentato e percepito come un crimine, bensì come una partecipazione alla colpa della parte della vittima che, come si dice, se l'ha cercata, ignorando completamente i devastanti effetti dello stupro sulla psiche della vittima. Anche la parola femminismo, adesso purtroppo in Russia, è screditata a livello politico. Viene percepita come qualcosa di radicale e associato esclusivamente all'Occidente. Questa etichetta è incollata al femminismo a livello politico come una delle presunte influenze nocive dall'Occidente, che sono contro i nostri valori tradizionali, scrive Maria Mackiewicz, la sociologa ricercatrice senior presso l'Istituto Sociologico dell'Accademia delle Scienze Russa. Molte donne non vogliono definirsi femministe perché il femminismo in ambito statale è diventato quasi un marchio infamante. Le idee delle femministe, come 200 anni fa, vengono ridicolizzate come lotta per non depilarsi le ascelle e per non curarsi. Io stesso, leggendo ar vari articoli sul femminismo odierno, scritti attualmente in Russia, per preparare la mia tesi, ho trovato tanta negatività, distorsione e condanna verso questo termine. Le idee femministe però stanno diventando popolari tra i giovani, scrive sempre Maria Mickiewicz. L'uguaglianza di genere e la rimozione degli stereotipi di genere per loro sono molto importanti. Ora queste idee sono popolari e principalmente nei circoli accademici di Mosca e di San Pietroburgo. Come si può vedere adesso dai sondaggi, questo proposito, molti russi hanno una vaga idea di cosa sia il femminismo davvero e lo vedono negativamente. Secondo Maria Mickiewicz, nel tempo però, il movimento femminista potrebbe naturalmente diventare una linea di pensiero influente in Russia. E con questo ho concluso la mia tesi. Straordinaria, Anastasia, Wow. grazie, perché davvero non avremmo avuto noi queste informazioni se non ce le avessi date tu. In un solo articolo l'ho vista messa allo stesso, cioè le quattro grandi attiviste, ideologhe dell'emancipazione femminile, Alexandra Kollontai, Rosa Luxemburg, Clara Zetkin e Anna Kuliscioff. Anche se la Luxemburg poi sappiamo che non è stata una femminista, però lei con la sua stessa vita ha dimostrato, no, che le donne potevano stare al pari degli uomini. Tu hai fatto un lavoro davvero pregevole perché ci hai portato materiale di prima mano, tradotto. Vorrei dire che quello che mi ha lasciato la storia di Alexandra è la sensazione di quanto debbano mettersi in discussione le donne, quanto debbano lavorare su di sé per poter ancora trovare la strada, cosa che agli uomini non tocca fare perché loro non sono mai stati messi in discussione. Le donne più coraggiose, quelle più capaci, sono quelle che cercano una strada e che se sbagliano sanno ammetterlo, sanno tornare indietro, sono le donne che capisco che noi dobbiamo ricostruirci partendo da zero. Tutto quello che noi pensiamo o pensiamo di sapere di noi viene tutto filtrato dalla visione patriarcale. E lei stessa, alla fine della sua vita, revisiona tutte quelle che lei riteneva che fossero certezze e comprende come l'aver cercato l'emancipazione eliminando completamente la spiritualità fosse impossibile perché la natura della donna cerca la spiritualità. Quindi lei nel suo entusiasmo giovanile, nella sua preparazione, nella sua intelligenza, pensava di poterci arrivare in maniera atea e materialista. Ma non dimentichiamo che la parola sciamane è una parola che viene da lì, che viene dalla Russia. Quindi il concetto stesso di donna ponte tra le dimensioni, di donna guaritrice, di donna medicina, viene da quella stessa terra dove si è tentato in tutti i modi di far credere alle donne che si potesse arrivare a una forma di emancipazione senza un cammino spirituale, dando solamente valori materiali. Quindi, se è difficile per gli uomini, a maggior ragione per le donne che sono sciaman, le donne sono portatrici di utero, sono creature spirituali per la loro costituzione biologica. Quindi io veramente mi inchino a te per il grande lavoro che hai fatto, ad Alexandra per aver tentato con grande coraggio, con grande, veramente mettendo a disposizione tutta se stessa, la sua passione che si percepiva dalle tue parole, per aver tentato di fare qualcosa e per aver tirato dritto per la sua strada anche quando, dopo aver visto che tutto quello che lei aveva fatto è stato preso in giro, canzonato, distrutto. E lei stessa era diventata lo zimbello di Stalin. Lei, nonostante questo, ha lasciato il corpo a testa alta, ha lasciato il corpo cosciente che quantomeno lei era stata onesta con se stessa in ogni momento. E questa onestà con se stessa, io credo che sia medicina per noi, perché avremo sempre il patriarcato contro, finché noi staremo nella dualità e il patriarcato sarà, diciamo, la visione, il filtro che alimenta la dualità, sempre ce l'avremo contro. Ma noi dobbiamo continuare a testa alta, credendo ogni giorno in quello che stiamo facendo e pensando che per noi è giusto, indipendentemente da come viene percepito all'esterno. E soltanto questa forza, questa capacità di restare fedeli al proprio cammino, fedeli noi, dico, al nostro cammino e alla nostra visione, ci porterà davvero alla fine ad essere quelle nuove donne che lei probabilmente aveva teorizzato un secolo fa, ma che era prematuro all'epoca, perché richiede una spiritualità, un cammino spirituale saldo, diventare una nuova donna. Lei pensava di non essere stata la donna nuova, no? che avrebbe voluto rappresentare di più, essere di più la donna nuova, giusto che si stava formando quell'idea di donna nuova che lei stessa aveva contribuito a formare e lei non si riteneva ancora tale. E a me mi è scappato, ho visto il microfono aperto, ho detto figurati, cioè per me è stata nuovissima lei, cioè, vedi come la percezione di se stesse, come spesso ci capita, no? Che noi abbiamo la percezione di noi stesse sempre. No, no, non sono ancora, non sono abbastanza, ma devo, ma vorrei rappresentare di più quello che desidero. Cioè, lei ai miei occhi era già super, cioè, già molto emancipata e aveva fatto tantissimo, tantissimo per l'epoca e anche per gli altri, tanto per gli altri. Quindi è un modello, per me è un modello. Io dovrei dire che forse per tante donne russe, anche se non la conoscevano la sua storia, lei è stata un modello perché è riuscita a innestare, almeno nella mia generazione, questo senso di forte, di autostima, di indipendenza, di capacità di essere, di stare da sole e affrontare tutte le avversità, almeno cioè, parlo di quelle donne mie coetanee che conosco, mie compagne di vita, le mie amiche, le mie sorelle, le mie cugine, c'è qualcosa di suo in tutti noi, lo riconosco, è quello qualcosa che ci accomuna tutti noi, tutta la mia generazione con lei, è quello che mi ha portato di tirarlo fuori alla luce. Il punto è quello che le donne credevano di sé e cercavano di costruire di sé. Un conto è quello che gli uomini percepivano e permettevano loro di essere, perché la mia impressione è che in realtà il modello maschile russo, al di là di quello che facevano le donne, non si sia mai staccato dal patriarcato. Cioè, l'idea che comunque le donne dovessero essere a disposizione rimane, cioè c'è stato un momento, io ho avuto i brividi perché sembrava quasi che il comunismo avesse instaurato una prostituzione legale, cioè le donne che prima erano proprietà del marito poi diventavano proprietà di tutti, altrimenti non erano come amiche del popolo, non Le erano nuove buone donne, sì, proletarie. come Quindi, Samonche. sì, quindi capite che alla fine il patriarcato tira l'acqua al suo mulino e riesce a fare il comodo suo, quindi le donne stanno sempre lì a nuotare controcorrente ed è questa la cosa davvero eroica, davvero coraggiosa che ogni giorno noi affrontiamo ancora oggi, perché non è mica finita questa cosa. Quindi non è che noi ci muoviamo in un mondo di sole donne che ci vedono come secondo il nostro filtro. Noi ci muoviamo in un ambito androcentrico ancora patriarcale, dove l'uomo comunque ci vede a modo suo. Che noi siamo emancipati o no, femministi o no, attivisti o no, sono pochi gli uomini che riescono davvero a rendersi conto di che cosa stiamo facendo noi, di come stiamo cercando di costruirci dopo 8.000 anni di patriarcato. E lì mi sembra che il discorso in Russia sia proprio questo, cioè al di là delle enormi operazioni, dell'enorme opera che hanno fatto lei e le sue sorelle, ma dagli uomini è stato capito poco e sfruttato al loro vantaggio, comunque a vantaggio del patriarcato, perché si sono trovate con doppio carico di lavoro, si sono trovate a dover essere a disposizione di tutti, altrimenti non erano considerate delle buone russe, e quindi cioè, alla fine cioè, quasi quasi più difficile il loro cammino, non so, delle donne qui che si sono con la rivoluzione francese o inglese, o non so, di una Emmeline Pankhurst, voglio dire, che perlomeno non aveva uomini che le dicessero se tu non vieni a letto con me non sei una brava proletaria. Non so se paradossalmente mi sembra addirittura questo, no?